Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. L'appuntamento è il sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca, quella che cerca di tirarvi su il morale. Iniziamo subito con una notizia un po' così, perché questa è l'ultima puntata che facciamo per quanto riguarda la domenica, perché poi dalla settimana prossima con il palinsesto estivo di Radio 24, insomma, andremo in onda solo il sabato, sempre a mezzogiorno, e con una puntata che sarà un po' una riproposizione, il meglio di quello che avete sentito in queste settimane. Invece, per quanto riguarda la domenica, l'appuntamento è a settembre. Subito i nostri contatti per rimanere giustamente in contatto e per continuare a segnalarci le vostre buone notizie, le vostre storie. Si può fare /Radio 24 su Facebook, come sempre. Si può fare 24 anche su Twitter. Adesso andiamo ad iniziare con qualche notizia della settimana. La prima notizia viene da Bologna. Lavoro, i paramedici in pensione, l'ambulatorio di vicinato, così è gratis una medicazione, una puntura, la misurazione della glicemia, il controllo della pressione. Sono insomma alcune delle cose che si potranno fare gratuitamente all'ambulatorio amico Mazza Corati a Bologna, dopo che esperienze simili sono state fatte a Bazzano, Monteveglio, Savigno e San Lazzaro. Ci sarà un volontario ad aiutare persone più in difficoltà, gli anziani per esempio, quelli che non possono ricevere aiuti a casa. Insomma, questi infermieri in pensione daranno una mano. Non è l'unico caso in cui dalla pensione ci si rimette in gioco ed è sempre una bella scommessa. Accade anche a Bari, questa volta cambia completamente l'ambito di attività. Partono le ronde nei parchi con gli ex carabinieri volontari. Dal primo di luglio si inizia a Largo 2 Giugno grazie alla convenzione firmata dal comune con le associazioni. Vigileranno che non ci siano vandali e che tutto scorra regolarmente. Debuttano a Bari le squadre di volontari nei giardini e nelle piazze più importanti. L'accordo è stato firmato tra il Comune e l'Associazione Nazionale Carabinieri d'Italia Protezione Civile. L'articolo giustamente sottolinea: è sbagliato chiamarli nonnetti o pensionati e pensare ai famigerati sceriffi con cappello e distintivo. Si tratta di carabinieri, finanzieri, ufficiali dell'esercito, guardie penitenziarie in congedo che hanno ancora voglia di mettersi al lavoro donando una parte del proprio tempo alla sicurezza dei cittadini. Questa è la notizia che veniva da Bari. Adesso andiamo ad iniziare con la prima storia di oggi. Nel dopoguerra non c'era chi urlava nei comizi più di un Cherokee. Non c'erano TV come di Nembo Kid, né radioattive come Nubia Chernobyl. C'era l'uomo qualunque, sostenuto dal fronte dell'uomo qualunque. Nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Oh, ferma tutto! Devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo, nello stesso clima, che su questo fuoco getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno, tutti sono in vetrina. Studieranno invece assai dentro le carceri milanesi e lombarde i detenuti, ma anche gli studenti dell'Università Bicocca e il personale del carcere, in base a un protocollo, un progetto che è stato appena siglato tra l'Università di Milano Bicocca e il provveditorato regionale all'amministrazione penitenziaria, per un progetto che prevede appunto questo, un polo universitario carcerario in Lombardia. E noi abbiamo convocato Alberto Giasanti, docente di sociologia del diritto all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno. Buongiorno a lei. Oh, eccoci qua. Allora, questo bel protocollo che è stato appena siglato è in realtà il punto d'arrivo di un progetto che viene da lontano e che prevede il coinvolgimento, insomma, all'interno del carcere del personale che lavora nel carcere, non dimentichiamoci anche di questo, degli studenti che sono interessati a fare dei tirocini in questo ambito. Adesso però si arriva a coinvolgere anche i detenuti. Cosa prevede questo protocollo? Il protocollo prevede che le persone detenute di una serie di carceri della Lombardia possono iscriversi alle varie aree disciplinari e alle ex facoltà dell'università e quindi frequentare i diversi corsi. Ovviamente dipenderà dalla situazione della singola persona detenuta il poter frequentare in carcere. In questo caso i corsi si svolgerebbero all'interno nelle case di reclusione oppure in università se le regole rispetto a quel singolo detenuto, alla singola persona detenuta, permettono che la persona possa uscire dal carcere. Tra l'altro siamo proprio alla fine di una settimana nella quale il Consiglio dei Ministri ha varato un primo provvedimento voluto dal Ministro dell'Interno Cancellieri proprio relativamente alle carceri italiane, perché sappiamo che c'è il problema del sovraffollamento e insomma misure alternative, pene detentive, riti alternativi. Sappiamo che è la strada da seguire, perché sappiamo che tutti i detenuti che seguono questi percorsi poi hanno una recidiva minore, cioè si torna a delinquere di meno, e anche per progetti, immaginiamo, insomma, relativi allo studio e quindi anche a un accrescimento culturale di informazioni, e perché no, trovare poi un lavoro quando si esce dal carcere è un passaggio fondamentale. C'è anche questo, immagino, sì, certamente c'è anche questo, anzi sarebbe interessante da questo lato che il Italia Lavoro, che è questa agenzia regionale che prevede dei contratti di apprendistato per studenti universitari iscritti, quindi che c'è una sorta di accordo tra aziende di vario tipo e regione, università, sarebbe interessante che questo aspetto specifico, di cui noi adesso Bicocca ha fatto alcune esperienze, possa anche essere trasferito alle persone detenute. Questo mi sembrerebbe molto, molto importante, perché a questo punto alla fine il progetto di accordo prevederebbe che alla fine del periodo di apprendistato, che vuol dire fare attività di formazione e lavoro, la persona che ha fatto questo percorso sia assunta dall'azienda. Magari, perché no, è difficile in questi tempi, però sono queste le... Ovviamente di facilitazione sia per le persone che soprattutto per le aziende, sì, di assunzione. Sono questi comunque i percorsi che esatto, bisogna sicuramente immaginare. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo subito dopo, continuiamo a parlare del polo universitario carcerario in Lombardia che si va a creare grazie alla collaborazione con l'Università Milano Bicocca. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Alberto Giasanti, docente di sociologia del diritto all'Università di Milano Bicocca, in questa veste a parlarci del progetto per la creazione di un polo universitario carcerario in Lombardia, proprio grazie alla collaborazione tra l'università e le carceri di Milano, ma anche della Lombardia, perché voi state lavorando anche con altri istituti. Anche con altri carceri della regione. Ci faccia un po', ci apra un po' anche questo mondo, ci faccia da finestra, insomma, su questo mondo. Si parla appunto del sovraffollamento, com'è lavorare per esempio all'interno del carcere con i detenuti, ma anche con le persone che ci lavorano, cioè il personale, le guardie, insomma, e si percepisce questa situazione che viene poi denunciata ciclicamente. Sì, uno si entra attraverso poi i portelloni di un carcere, ha immediata la sensazione di trovarsi in un altro mondo, ma questo posso anche capirlo, ma soprattutto senti proprio una situazione, almeno se dovessi dire soggettivamente, di soffocamento come se non ci fosse neanche l'ora d'aria all'interno, quindi c'è una situazione di soffocamento. Però devo altrettanto dire che è stato anche molto significativo lavorare come docente, come correttore, sì, di corsi di formazione all'interno delle carceri. Si impara qualcosa? Come? Si impara, credo, anche qualcosa. Assolutamente. Forse. Intanto si capisce che cosa vuol dire le situazioni di sofferenza, le situazioni di emergenza, che cosa vuol dire la privazione di libertà, che cosa vuol dire la relazione con l'altro, e potrei continuare in questa direzione. Quindi a mio avviso, per come dire, un esterno, sì, impara moltissimo, per me come docente ho imparato molto di più, anche perché poi abbiamo anche potuto svolgere una serie di attività anche di ricerca, anche direttamente in situazioni di cella, e quindi si viene a contatto chiaramente direttamente anche con queste persone. Diciamo anche la capacità che le persone hanno di recupero se offerta. Questo è importante, si vede in faccia, non lo so, come si fa a capire, si capisce subito, oppure sono percorsi che vanno strutturati, ci vuole tempo, oppure si vede la voglia anche di queste persone di rimettersi in gioco positivamente? Vede, potrei dire appunto di una esperienza che è nata dentro all'istituto di Bollate, con questo gruppo di persone detenute già in articolo 21, cioè già con la possibilità di uscire per fare attività all'esterno del carcere, che hanno costituito un'associazione di volontariato. E io li ho sentiti per caso proprio qualche tempo fa dire come questo fatto di essersi costituiti in associazioni volontarie e di svolgere azioni all'esterno nel territorio, in questo caso nel territorio milanese, associazioni di volontariato, le abbia cambiate. Insomma, in meglio naturalmente, speriamo. Vogliamo dire anche, certo, era una battuta, anche una parola su quelle figure di studenti che chiedono di fare dei tirocini, degli stage dentro il carcere per affiancare gli operatori nel campo dell'ascolto o quant'altro, che poi credo diventino anche quelle figure di cerniera tra il mondo dentro e il mondo fuori, che sono comunque importanti. Assolutamente importantissimo. Questa cosa è che ha una doppia, come dire, valenza di importanza. Uno per il singolo studente che conosce delle realtà che ignora, no? Perché le legge attraverso i libri o i giornali, ma non è la stessa cosa avere, come dire, l'esperienza agita. E dall'altro serve come momento di circolazione dell'informazione all'esterno della realtà carceraria, nell'università e anche però nella società civile. Noi vivremo sicuramente a ritrovare quando il progetto sarà partito, questo ultimo è decollato, e insomma avremo anche altre cose nuove da raccontare. Intanto grazie per essere stati con noi, al professor Giasanti. Grazie a lei. E per quello che fate. Adesso invece cambiamo completamente panorama. Ognuno di noi ha un angelo custode, andiamo a conoscerne uno. Than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling. Esiste in Italia la Business Angel, anzi la Italian Business Angel Network, è un'associazione, la rete dei Business Angel. Di che cosa stiamo parlando lo capiremo tra un attimo. Poco tempo fa ha premiato il migliore angelo del business, vogliamo dirlo così. Lo chiediamo a lui. Eugenio Venditti, buongiorno. Buongiorno. Come si dice in italiano? Non si dice, c'è traduzione. Investitori. Ecco, investitori. Siamo già caduti subito, perché uno angel già si illudeva di essere a un livello altissimo, invece parliamo di questo, cioè i business angel sono quelle persone che investono nelle nuove imprese, nelle start-up, nelle imprese giovani, portando capitale e competenza, e quindi fanno proprio da angeli custodi, accompagnano. È una bella rete in Italia, importante. Intanto complimenti per aver ricevuto questo riconoscimento, signor Eugenio. Grazie. Sono stato ovviamente contento di questo riconoscimento, è stato significativo. Grazie. E in particolare per quale progetto è stato premiato? Per un progetto in cui sono entrato a novembre dello scorso anno. La società di cui adesso faccio parte è NTQ Data ed è una società che opera nel settore dei servizi per l'antiquariato. In particolare produce un database che è per design, modernariato ed antiquariato, da tutta una serie di dati

credo, se non ricordo male, saldare un conto di una bolletta. Giovanni Malagò, Giovanni Malagò si è fatto avanti, ha dato un suo stipendio pari a migliaia d'euro di cui abbiamo sostenuto un paio di mesi, però questo è un centro sociale sportivo formato da quasi 1200 persone, più della metà non pagano la quota di 20 euro, non pagano niente perché diversamente abili non possono pagare, i ragazzi dell'area penale non pagano, marito e moglie pagano 20 euro e 20 euro e gli altri 4-5 figli non pagano. Questo è un centro che fa un grosso lavoro di alto spessore sociale. Cioè, qui è un oratorio di pomeriggio, i bambini vengono un'ora prima, giocano, fanno un'ora di attività, restano per un'altra ora, si renderà conto che cosa ma è possibile, centro. Maestro Gianni, è possibile che in un territorio straordinario come quello di Napoli, per una attività straordinariamente bella come la vostra, non si riesca a dare continuità, serenità, stabilità anche dal punto di vista della sostenibilità e che tutte le volte bisogna trovare la magia per uscirne? Questa è bella sta cosa, però esiste Dio e oggi esiste un altro alleato, Papa Francesco, che attraverso Radio Vaticano e attraverso voi faccio di nuovo un altro invito, venga a Scampia, perché Papa Francesco è una persona splendida, è vicino alle fasce deboli e come Dio sicuramente Papa Francesco può darci una mano, perché è vero che le istituzioni sono in grosse difficoltà, però si dice volere e potere, stiamo sempre dicendo la stessa cosa, zoppichiamo ma la palestra non chiuderà mai, mai, mai, mai, perché fin quando sarò vivo io questa palestra, questo centro sociale resterà aperto. Mi pare di capire che vanno aiutati, lei piuttosto questo. Che chiedere aiuto all'istituzione, a qualcun altro, preferisce rivolgersi al Papa, questa è straordinaria. Insomma, il Papa è una persona speciale, è un uomo che ha fatto avvicinare tutti quelli che si stavano allontanando. Secondo me c'è qualche possibilità che... Sì. Ma notavo anche una certa freddezza, quest'uomo è speciale, è uno di noi, chiaro. Io penso che se per caso questa intervista o altri Gianni Maddaloni possono arrivare all'orecchio di Papa Francesco, non è da escludere che qualcosa possa accadere. Bello finire così con questa intervista a Gianni Maddaloni questa stagione, perché noi ci fermiamo qua adesso per questa puntata, però ricordo che si può fare andare in onda con il meglio di sabato, non saremo più in onda di domenica, riprenderemo a settembre. Grazie intanto a Maestro Gianni per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per quello che fate per me, chiamate sempre, abbiamo bisogno di voi. Grazie. Appuntamento sulla Rai quando è che esce la fiction? Possiamo dirlo? La fiction, ma si farà una grossa conferenza stampa, grossa pubblicità da adesso in poi su Facebook, su YouTube, perché devono essere 12 come quelle di Gomorra le puntate la prossima volta, chiaro questo? Va bene, noi siamo qua e faremo la nostra parte sicuramente. E allora, come detto, si chiude qua questa puntata, io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che anche questa puntata l'ha scritta insieme a me, Gianmarco Ferronato in regia per questa puntata. Io sono Alessio Maurizi, mi trovate su Twitter, @AleMaurizi. Come detto, ci risentiamo ogni sabato a mezzogiorno con il meglio di Si Può Fare e poi con la programmazione normale, credo, perché i palinsesti sono in fase di formazione, a partire da settembre. Buona domenica, buon weekend a tutti! Sì!